Buongiorno, sveglia, dormiglioni, passano le passe, passicini, caffè e cappuccino. Buongiorno, sveglia, din don da, sveglia, pepe, caffè, cappuccino, passe, passicini, sveglia, belli bei, e you, se magna, aiu, sveglia, Luca Gufo, Giamalina. Beh, anzi ne bisemmo da rurissimo, insomma, tutti dormiti, sveglia! Ma che tu non sei dormito, sei ancora coccato, ti vengo coccato. Già so che un'ora mangi ogni pasta e pasticcino e poi sul ragghenne. Ti scrivei come il cilenni, ti lasci la carità. Ma non l'hai vista questa fotografia? Cosa ti ha rifatto? Papà l'ha rifatto, ti ha rifatto la striscia, come si chiama questa striscia che tu vinci? Missi mondo, cosa hai fatto? Lo strippizzisti? Quella me l'avete voi quando facevo lo strippizzisti. Però, a te, e allora? Ma hai fatto pure questa striscia, non ti rimanerete che... Chi la me l'ha rifatto, va, di la verità, cosa hai fatto, la sfilata dei bicchini, e i fiumi a chi non tirare in bocchi, io mi pugnare i fiumi in bocchi. Uia, ti ha raccontato tu se mi hai fatto, uia, non ti dico niente. Boh, ma è imbriacato! È arrivato, poco è arrivato, E di là, non ti ripugnano in un slipino, nello zippi. E di là, lasciate loro, mi so. A interessa la faccia buona. Ma non vedi il mio ristorante? Quello in casa. Se abbiamo una rosina era lì, anzi una rosina, e una trentina era lì. Tutti in casa, ogni nel buco, il salone e cucina. Non ero in occhi, no. Aosierami, dal locale mia nipoti. Ah, e chi sei per la pizzeria? Mi pare strano che ha dato io nella polizia, non c'è niente. No, noi eravamo da mia nipote, era per locale nanno, capito? E poi ha cucinato pure per noi, capito? E più che la pizzeria. Ma le sale sono grandi, così che era tutta la base, era un caso, gatta, uia. Ui, trinchete, ma niente, non si dico niente, boh. Beh, chiaro credo che è caldo, con un porro della pizzeria acceso, bisogna un riscaldamento, chiaro credo, cioè è bello così, vabbè, 80 anni si è arrivato, 80, e regali è fatto te ne hanno. Io non ne volevo, invece già l'hanno fatto, tutti l'hanno fatto, ehi, caro Griglia. No, ci telefono loro, è di Fidelia lì per cui già l'hanno fatto. Ma non le vuoi il regalo? Penso che dare i regali, ma cosa ne posso se c'è il regalo io? Ti arrivi da voi, cazzo, quindi sempre, non se non tratti più quasi, secondo me la danna, perché se la va la tratta a casa di un altro figlio. E vabbè, è tanto stato da voi. Allora tu devi fatto morire a San Valentino, alle 14. Infatti, vabbè, ma chi ce l'ha vista? Guarda, ma le faccio pure una, due tucce, mira. Ma le faccio la tuccia, come fa la chilo, il subprofessionale, e sopra la... Cioè, la Duccia, dove era chiusa della fotografia, no? Ma la manna è quasi quanto era il piatto della Duccia. Cioè, un certo 40, un certo 40 via. Ehi, la fotografia della torta hanno fatto, così, non è certo chiusa così. O vedi la fotografia della persona. E c'era una di Assenuri, la dopo presa io. In estate, un paio di anni fa, quando erano in campagna, avevano mamma mia un compleanno. Qua ogni giuca, manna, la ribetta, non coppano a chi, non vi cazzia. Si canti la manna, mi fanno e faccia la via butta in piano, 30 rugoffano di la macchina, e la canta rugoffano, di lunga. A Signori, nella salita di Signori, c'è una pasticceria che le fa così. Sì, ma pure qui c'era lui, ma era le manne, capito? Era manna vero, a voi ragazzi, che se ne mangiava tutta questa cosa, certo. Per carità, a crepatura, se ero un graffano, però faceva una cazzaglia la cara, non ti dico niente, per carità, e da poi se la mettiamo che siamo male, cazzo. Ehi, male, cazzo, nei vizi di Noani, né casa né cappella, sì, cazzo, nei mari, le barboni, sì, cazzo, di vizi di questo... O magari hanno messo tutto, casa, cappella, travaglio, quelli lì sì, però i barboni che proprio si quasi niente, i barboni, e piccani di nai a massa, come ti visto di una lira che ti mandava, visto hanno messo non so quanti di nai va via a casa sua, visto che si veniva a piazza Castello, di Alghero, che era sempre bussato in Rucuzzuri. Quello lo sai soldi che c'erano in casa sua. Posso immaginare. E lei ho visto di frugo di c'era grande minoretto che ci abbiamo via a Roma, figurati tu. Fissamente quando ero umano lo veniva sempre bussato in l'angolo di piazza Castello, vicino a Roma. Quella che ti picchiate, rubacco. Da poi parava le vicine e si pigliava un fumo. Quando ci viene tutti sciancati. Quando è morto qui in casa Giulia, non so quanti milioni e milioni l'hanno avuto. Lì milioni di tributi. Sì, certo, non abbiamo le bucce sotto le mattoni, no? Spera, un materasso pieno, un cucino pieno, i mobili tutto di là. E detto che mi ha santato, stava il fumo alla vera. E se bussava anche lì, le vostre nene, le voci, una canna di puriata. Tu figurati, era la vita a vendere questi ritina che puriavi. Quindi sono belli gli salienti infatti che si travaglia. Guarda, magari li sono tutti disocinati pure. No, già era pulito, già si vedeva che era pulito. C'era sempre vento un po' pittinato, anche la roba non era rotta, la roba buttinuta, la via era pulita, rivolti, si vedeva che era pulita. Però per dire, ogni abbezzo d'uomo era, ogni era chi mi bussava. Fra cui la domenica, lo sabato non via, però tutto il resto della chiesa era sempre lì. E va che si diranno le fanno due dare i nipoti e ai figlioli. Aveva fatto la vita quanto un cane, io mi bussato, per carità. Era meglio molto. Grazie. Sì, ti ha messo la bacone, no, che è freddo, gatta. A chi l'aveva ripati, lo bacone. Gatto, freddo, lo bacone a bici. La danchi, gatta. Gatta che freddo, caccarato, ma. L'aria è fredda, aspetta, stavano chiamando a vedere chi è che chiama, avanti, che ti senta attratti. Sì, sì. Ciao, Garcia, Franco. Ciao Maria! E adesso ti ho sentito Franco, ciao, buona domenica! Ciao Maria Franco, non lo tuffi! Sono un po' mio, aspetta che metto l'antenna fuori! Franco, aspetta che Gio Maria sta mettendo l'antenna di fuori, così lo senti meglio. E dai, l'attacco pure io con l'antenna di fuori, là. Aspetta. Ehi, già sono qua, là. Vediamo un po' se lo sento adesso. Franco, mi senti? Adesso sì, No, ero col gommino, non ti sentivo, adesso ti sento bene. Dove sei? A casa? No, negativo, a Trabacco, Porto Torres, zona industriale. Allora, un buon boe, a voi arrivi, gatta. Adesso arrivi bene, Fra, buongiorno e buona domenica, e buon lavoro anche. Ehi, capa, tutto è cambiato accento, vai, domani. Io ho sentito, ero lì, dentro lo spogliatoio, vi ho sentito, adesso esco fuori, perché chiamava Graziano, ma non ero dentro, e allora sono uscito fuori. Ehi, Graziano, stai con me, vero Graziano? Ehi, aspetta che sto attaccando quello con l'antenna fuori. Attacca l'antenna fuori. Vediamo un po' che da Parigi. Beh, ti arrivo adesso, Fra. Sì. Abbastanza. Sembri qua. Ok, anche tu arrivi bene. Che sei quasi 8 di segnale. Ehi, capo. Vabbè, qua c'ho il Baufeng. Il portatilino. Il pigino di gomma. Arrivi bene. Caspita. Sai com'è? Poi tutto libero, glielo credo che arrivi. Certo, non si sa sbagliare gli ostacoli, no, ma è tutto libero, per cui arrivi abbastanza bene. Infatti. Adesso provo un lento per essere, mi ascoltate. Dai, prova. Avanti, Fra. Aiuto, parla. A tratti sta uscendo, Non si capisce niente, quel rem e basta. Ehi, adesso ti sento bene. Sì, dentro non senti. Mi sembra che sono le mura rosse, dai. Infatti, sei tratteggiato adesso, Fra, Sei tratteggiato, però riesco a capire, l'ho capito. Sì, sono di nuovo dove ero prima, là. Comunque, arrivi ugualmente, Fra. Ho sempre parlato da là. Qui dall'altra parte Giulio non mi ascoltava, da qua mi sente anche Giulio. Vedete, il punto è buono quello lì, capito? Hai trovato il punto buono e arriva benissimo, è a voglia. Vediamo un po' se è rientrato Graziano. Graziano, attaccato là. Sta attaccando l'antenino di fuori, là. E sentate niente, ma va bene comunque, Fra, a Puglia. È un bombon, va benissimo. Scappa, non mi conviene, Graziano, attaccare l'antenna fuori. E io ogni tanto mollo subito adesso che sto trabaccando là. Lavora, Fra, dai. Quando c'è sempre tempo libero, una chiacchieratina, che se breve fa piacere sempre, Fra. Capito. Bene, Mesa. Sì, glielo credo. Già lo credo, ci pagano Gio Marino per lavorare. Per lavorare. Se loro ci sarei stato qua, neanche per sogno. Adesso sei tratteggiato, perché sto camminando, capito? Se riesci a capire ugualmente, dai. Va benissimo, Fra, a Puglia. No, ma la zona lì è tutta libera, per cui ostacoli non ce ne sono, e già arriva, magari ci saranno qualche punto morto, c'è sempre, dai. Sì, infatti, ma adesso mi ascolti bene, adesso mi dovresti ascoltare meglio. Il segnale è aumentato, per cui la radio è perfetta adesso. Perché sono fisso in un punto, capito? Attento, Grazianito. Mi senti? Gio Mari, mi senti? Senti anche Franco, si sente, io ti sento bene. Anche Franco si sente bene. Franco ogni tanto lo sento a pezzi. Fra, mi senti bene? Gio Mari, sparito. Chi è sparito? Maria, già ti sento. Come mi senti a me, Fra? Benissimo. E anche a te adesso ti sento bene. Dove sei? Al lavoro. Sì, al lavoro sono. Sì, ti è toccato di turno tutto il giorno. No, sino alle due. E allora già ne hai poco, da. Va bene così, meglio lavorare quando bisogna di na, conviene sempre andare a travagliare. Già è vero, già, grazie. Va bene, dai, grazie, vi devo lasciare, dai, sono entrato solo per salutarvi. Ci sentiamo, ciao Gio Maria e ciao Graziano, riprendi Graziano. Ehi, ciao, buon proseguimento di domenica, salutone al QRA, alle prossime, vai Gio Maria. Ciao Fra, ci sentiamo, buon proseguimento di giornata, dai, ciao, ci sentiamo Fra. Alle prossime, ci sentiamo, ciao. Ok, dai, ciao, ciao. Aspetta. E allora Gian Maria, oggi sei a digiuno. Aspetta un attimino, grazie. Sì, poi chiama che state mi mette a posto qua. Oh. Dimmi. Cos'è che stai combinando? Guardando il giornale. Alla bici torna e sta ancora lì via, la butti. Ma di ladri, cosa fura di una scuola di bambini? Beh, il giornale non è bisogno, lo sa che non ne prendo il giornale. Ma allora, vedi, a che cosa? La televisione a Ridui, a Rai 3. Io il giornale non ne prendo, grazie a... Ma io già lo piglio, non ne ha lì, ma già lo piglio. Cattivo vuoi che la nappa c'è sta pure? C'è due volte la nappa, quella che la buttivo. Quella che c'è la buttivo. Sei lulino il soffè. Cosa ne avrà la cura se una scuola di bambini elementari? Che gente macca, dai. Sì, gente macca, non sono macchi chi si no. Sta giusto che gente seria, se non esiste più, va. Specialmente al giovedì di oggi, con i tabelli da brodo, e fanno delle cose che non devono fare, eppure lo fanno perché è per forza, non per travaglio, non per nulla, non si che si dà di là tutto, grazie a... Non gli interessa, fanno di tutto, fanno, ammazza le cazze, ti cudi, allora dimmi tu a che punto siamo arrivati, cazzo. Io c'è la brica, ma è vera visto che la pure all'arresto domiciliare. E con cacciavite in busciacara, apriare macchine, varie chiave fatte, truccate, no, per aprire macchine, fa frane la cosa. La polizia l'ha bloccato, si è girato pure alla polizia e da poi quando l'hanno computato la polizia l'hanno avuto 5 dosi di droga pure in busciacca e si è girato in mezzo alle macchine nel parcheggio, ma prima le macchine a furarmi e l'hanno arrestato e si è girato pure con i poliziotti, allora abbia rimposta. C'è la bucata bancale. C'è la rugrina, ma per lui mi la sa però, no appoggiarsi la chiesa, per i due o tre di ricava la fura e fatti torna i colpi. Oh, fra poco lo vedi torna il giro. E forse di no a chi si è butturata la polizia, li voleva vecchi gruppi. Se si avrà pigliato una vetta giusta e allora se l'hanno buscata uno. A banca, roba la macchina. Non puoi dare a manco macchina, va, che ti ha preso per un asso. E allora, te l'hai fatta da Zino, che era di Adalanti, no, la parcheggiata la Zicuzzetto di Lorenza. Catta, davanti a noi, catta, a riboccio, catta una ciaba e la subigliava la ciabia a cavalli rossi, ti puoi immaginare, davanti a noi, catta, ci siamo affacciati, magari siamo parati a giosso, catta, ci ho portato a corriere, mollato il rode e tutto, ma non ci appalle, capito? E bene o male ci siamo usciti a recuperare il rutti. Ah, da là da noi. Mi lascia di noi, mi lascia l'altro di tutti. Sono già stati due, dai ossi noi. Con un cappuccio, si sono fermati a bardato. E beh, ci l'hanno bardato le frutti di una vicina. Poveraccia di travaglia, va una figliola burrissa. Non ha marito, anche l'aveva mullata. Cazzo, ne rivoliamo pure le ruote, infatti ero sempre accialato. Ma dove sei la piscina? Che tu lascio della sempre, l'ha detto. A volte questa base non ne fune né piscina, ne fune né dalla base di piazza, che v'è più luce, ad avanzare un busciare. Se non ne vogliamo i botti di gommi, e me mio la giudice si è incinato, si va pure i giri, tu crendi con la mano, hai compreso. Ogni altro, meno male, deve essere l'hanno avvisata, adesso. Ma a Napoli questa me l'ha fatta a me. Gatto, e te, si occupava di fatto un viaggio di la voce, di andare a Napoli a pigliare l'asse delle cornici, no? Però sono arrivato a parte sera dalla ditta ed era già attaccato quando sono arrivato io. E mi sono con Bosco attaccato al cancello ed ero drommito io. Ho tanto, mi ha citato la guardia dell'ottura, mi ha detto, guarda, dice che gli stavano rubando, fregando, dice le gomme, le stavano fregando, non se ne è accorto del rumore che gli stavano facendo. Appena su chi scioccio era, meno male che la impasimati, si sono fuggiti, se no mi aveva ricamato il ruolo di Atareto, ed era senza bisammini. È un bel soffurente, un bel. E chi su chi agata ne si butta, no, non risulta ni nulla. Ma fatti di dinari. Troppi ladri vi so, Per forse, va più di prima, che adesso non mettendo la questione grazie. Per forse, non è travaglio. Cazzo, sono tirato avanti con la droga, e cazzo, si droga, fate tante di chissi cose che non devi fare, eppure il vatini, ma che sono tutti drogati, capito? E chi si buono per? Questo si è stato un travaglio, l'abbiamo ripreso veramente fatti travagliare, e non fai stato altre chissà cose, invece va a succedere pure questo. No, per travaglio e fate di tutto questi debiti paesi, capito? Sono tre migranti, non si buoni vedi. Uno ha coltellato, ha tentato da coltellare una su, un migrante. Invece un altro è morto alla Caritas. Si sono punti e l'ha fatto secco. Roba macchina, pure tra niente ci sono i cannetti. Non hai visto cosa fa, sia da villino. Dici, un attimino. Elino, ehi, questa roba furata, per un mercatino della roba furata. E dice, questa roba rubata, adarata a carabinieri, polizia. E la vendini. Dimmi tu, cazzo. Mi per un mercatore manno, tutta roba furata. Ma chi si chiama Pinta Sanremo, Zaghi, oh, uno si chiama Metta. Maria non ha Metta è Moro. No, lo sonno. L'abbiamo visto in televisione così, però si compriva niente, c'era la musica, c'era un saccaccio di gazzotto, gatti nelle fatiche poco brutto, c'erano quel compleanno di due o tre pizzini, c'erano, ma per l'altro romata pure di questi pizzini, un casino che facevano fino a più. Tra lì, ecco, mentre facciamo noi, tutta la gente viene la pizzeria, e noi ci compriva un tubo, però avevo visto un cane vinto, però non so questi sono saggi o no, grazie. Intendi questo, hai sarugane ai carabinieri per non fargli il controllo. Invece a Portiudorra ha sbarcato un 68enne in macchina e la ne ha usato, mi pare, un chilo di droga. A te immaginaci. più ni beccani e più ni so, grazie. Sta giusto che frutta un bel sagoso. E non si scende, anche per troppo niente che hanno necessitato di sagoso, ragazzi. Fanno di tutto, più una ciappa e più venisoso, se parreghende, se fa ciappendiri, ma non mancare mai, guarda, ogni di una ciappa, ogni di, arrivi a contare bene chi c'ha droga da pure, capito? Come ti fate, ma poi cosa li fate dal crisi tanto che c'ha droga? Ah, se la vedi, io voglio davanti, E chi era un pensionato, deve esserci pure a rotondare la pensione. Se chi ce l'ha mai fatto a cantarlo, magari l'hanno fatto con 5 kg di droga, mamma. 5 kg di droga, mi ricoprono 68 anni. Certo, sei cucchini di droga, altri immagineggi. Pure a rotonda la pensione, secondo me là, magari hanno fatto un bicicletta, fai trattenere e ne è passato un altro con un triplo di droga. Già li inventano, di maniera li inventano, capito? Per carità, un attimino, grazie a me che hanno suonato. Aspetta un minuto che mi sta mettendo l'acqua dentro lo sportello. Vai, chiama dopo. Finito hai. Sì, stavo sistemando l'acqua dentro lo sportello del mobile. Sennò per la via lo stanzino in terra, tutta un pezzaggio, quando elimina giù che sta di buon culo. Oggi fuselli di pollo, c'è Dolly qua che sta sbucciando le patate. Che magari mangia? Non ne ho voglia, finne cosa. Ecco, fai gnocchi, fai il riso, la fatta la pescatora, le gnocchi sono fatte con la carne lessata. Poi vai pesce, miso gamberi, gatta, calamari fritti, calamari arrosto, cos'è che non fai? Che rimane? Ci la fa prendere la casa lì, in la cara, i russi, cosa fanno i giocatori? Bisogna comprare due volte la cara. Ma cucco qua dopo di essere, e puoi immaginare, vieni in la gatta. Non mi pare che non mangio niente. Primo gnocchi di patate, a secondo fuselli di pollo con patate. Giomari! Dimmi no, buongiorno! Puroni, a 100 anni! Grazie Ru! Lauro! Sentimi! Lauro! Lo ha compreso, ripeti. Che hai fatto da bravo, io Mari? Più bravo di così, gatto, si può dire. Gatta, pari di ragionare, ci ha ridotti. Due vaghi girati, ha detto in te. Grazie, aiuti tu, giovani, fai un micchi giovane, cura fascia. Vabbè, piano piano, Ru. Piano piano, ti riporti, tutti i canti, verani. Mi hanno fatto a beffa, mi hanno fatto, però... ti fa piacere, ero dai. Per i nipoti. Infatti per i nipoti, per i nipoti, oia. Fare girami, così che stiamo stati bene veramente, dai. Almeno a 80 anni ce l'abbiamo goduto un po'. Non vedo, Gio Mari. Hai fatto bene. Come ti vai, strano? Non ti ne hai fatto baracchino al regalo. Ehi, l'hai fatto. Io non volevo niente. Cazzo, cosa mi si fa? A me non mi si fa niente, no? Però io l'hai fatto tutti i cazzi, cazzo. Senza niente, l'ufficiale di chi si è, vi tengono e vi tengono tutti i nipoti e i pronipoti pure, puoi immaginare. Però il regalo non li voria, io non voria niente, voria, a me mi basta solo la buona amicizia con tutti. Ah, la fotografia che vede la stampata era tutta, ti l'hai mangiata, che baracchino vede la stampata, è nata la tutta. Però, ma, per la 4.40 è stampato, l'hai visto, pure c'è parecchio, ma si è mangiato. Vai giù. E mi hai detto, mi pare il viraggio. Il villaggio è stampato là, aspetta che abbaia, si fette la mando. Sì, abbaia. Graziano. Ma chi sei la duca? Il baracchino non fai disegnato. Qui sono due buppazzi. Abbaia se ti piace, la volta ti ha giumato del cagnolino. Ma vabbè, che fai, magari non si vista bene a che la giubilia dal rovescio, però questa cosa che fai in mezzo è la fotografia del 4.40, capito? Io devo la giusta, bisogno di un buffazzetti, non ve ne disegnare, forse tu hai fatto l'altra fotografia, sarà quella a fianco, non l'hai inquadrata. E a bello cagnolino che ti ha giù mandato io, mangiando un urso. Non si vede una torta con due pupazzetti disegnati. Quella del baracchino non si vede. Ah no, forse... Oh, boh. Ma cos'è, celeste? Qui c'è un'altra, qui c'è un'altra, ci mando da là e la salduccia. A parte ti mando Zorra, chi da di prima. Ma chi non è inquadrata vera, capito quando ha già fatto la foto. Però se la striscia azzurra, come cavolo si chiama, verde, quella è tutto il 4.40. Ah, e arrivi da te che si è stato mandato la foto del cagnolino. Adesso con Fenichiccia da poi a babba e giù, a babba e giù la giuglia, là. Qui sarà. Aspetta, che ci sbagliato, là. Abbastanza ci sono mandato la foto di prima, aspetta che abbai giù. Sì, quella gialla, la torta, e quel baracchino disegnato, già si vede. Già si vede. Mila. Ma non si vede bene, niente, questa cosa. Un pittibu, non lo vedi, aspettatelo, rimando. Io lo vedo, non bisogna mandarlo, dai. Già si vede, via, va, dai. Adesso lo vedo bene, dai. Cazzo. Io mangio la sera con caldo. Allora, non lo vedi se riprende i mascelli col suo osso piccolino. Se ne immaginate. Cugna a capo. Un pittibule, mi. Eia. Chi su di magna, mi? Fate un mosso, un cristiano. Io sono attrezzato, a me non mi tocca, ormai io mangio a te. Tu, a me non mi fate nulla, con me con yoga. Aspetta. Eia. Sara Rosi se la conosce, se la conosce, chissà che pizzerà a me, grazie. Chissà che te l'età a me. La sordina, eh. Ah, già l'hai conosciuta. A me parla con il Assuntina, se la macura impari. Uscita, è andata al negozio da Cristian, si è dimenticata a comprarsi l'uzzo, a rimane. L'uzzo di giorni è le pillene da Cristian, no, che è aperto. Eia, ingrassata sì, Giammari. Ah? Ho capito. Uscito. Non sei uscito, Giammari. No, no, sono io, no. Sono io, tu. Saluta la parte mia quando la vedi. E anche da parte di Paoletta. A Giudizio si è ingrassata un poco a Suntina. Ma se proprio gli anda a travagliare. Fai saltare di cosa va di la canica. Canica e poi lì a un disperatore c'è un cigiama. Tutta in sazzona, papà. Ah, e a che bello periodo la incucciavo spesso quando andavo via con Paletta dalla dottoressa in via Mendola, via l'Italia, via Muroni, a Peri Barò. Ed era brillante, ingrassata, se meglio così. E beh, perché in quella zona lì, adesso dove adesso... Va in macchina e a piedi ne vado di manco strada, meglio così. Ehi, dare la giù la macchina a te, di no, delle poste. C'era, c'è il furgone delle poste adesso, capito? Sì che magari la tassa in un luogo, magari è, si posa con un pacco e consegna, da poi torna a caricare e anda a consegnare a piedi, capito? Poi fa tutto il stagione e già fa la macchina. Sì, già lo so, già l'avevo vista con il fiorino, un fiorino c'aveva, furgonato delle poste. E ma dico, così strada ne fa di meno, invece che andare in Sidai, cammellava un bel a piedi. Infatti allora, perché la però allora c'aveva la macchina sua, magari la posteggiava, non so, in un punto e dopo si caricava la borsa e consegnava, e ne faceva in strada, ma ne fa anche adesso. Solo che catta, quando passeva, il tempo malo, catta, devi camminare, già attrezzata, però sai come, sembra così, ma si tracca un bene. Freddo, a macchia dreccia. Sì, a chi fa questo, fa questo travaglio, ti devi tappare bene, con impermeabili di mani lunghi, fissamente a terra, che quando capiteggia i cd che se non vedeva, si bisseggeggia a mezzo carriera, sono capoli. Ma se si attrezza bene, io qualche volta l'ho visto anche in inverno. Già era bella attrezzata, già era bella tappata. Con quel lavoro è così. Ok, un attimo, grazie. Sì. Buongiorno. Quanti, chi è che non ti ho copiato? Ma buon Natale, buongiorno. Ma Marino, è bello. E cosa sei venni di bello? Guarda, mi stavo sistemando un po' dove ci avevo fatto il muretto, stavo insieme a fare un po' di pulizia, trovato un po' di qualche pietra, questi blocchetti a mezzo ai piedi, pronto a passare il legislatore, abbassare un po' l'erba, così. Se non piove la persona guida e passa molto zappa, capito? Iniziamo a fare un po' di pulizia, se no fare un montinaggio. Piano piano, sempre senza ammazzarsi. Sì, piano piano ti rubai, adesso magari se fa qualche giornata bella, il pomeriggio se non la bruci, ti fai un'oretta oggi, un'oretta domani, ma così una bicicletta in campagna facevo così. E piano piano sono tolto un po' di roba, non tolto, dal semato, ho messo molto molto zappa, ho saldato, fatto girare un po', capito, era ferma già un paio di mesi. Messo in moto e l'ho spostato, è pronto a passare il collo, abbassare un po' l'erba con l'escitatore così pure passa un po' zappa, capito? Così la faccio girare un po'. Piano piano, senza ammazzare, dammi nel tempo, grazie, un po' oggi, un po' domani. Avanti, Gio Maria, si è scusato un po', avanti. E mi pare che ha sentato, cosa ha detto? Gio Maria, ci sì. Sono qua, ma c'è gente, grazie, devo chiudere per forza, dai. Ci sentiamo stasera. Ciao Mari, comunque, buona domenica a te e famiglia. Ci sentiamo. Ciao, riprendi con Graziano, io chiudo che c'è gente. Ok, grazie Gio Maria, sono cambiato al centro, già ci sentiamo stasera. Benissimo. E così Graziano, piano piano, senza massaggio, un po' oggi, un po' domani, già passa. Ehi Giulia, già viene il tempo. Tanto adesso ho visto che già il ginocchio già stanno bene, piano piano. Ciao Gio Maria. Sì, io già ho fatto avvicinate con la commissione, adesso vedo in settimana, se ce la fa, se chiamo, tra adesso te la avvicino. Ehi, vabbè a tutti i giorni, quando ti piace, che io c'ho il tempo. Ed io in campagna rubati a uscirmi, piano piano, la sera quando uscivo da lavorare, in estate, un'ora oggi, un'ora l'indomani. La tenevo sempre a raso terra, l'erba, sembrava un prato verde, quando era verde ancora. Fitta, però corta a corta, piano, tipo prato verde la facevo. E come faccio io? Io faccio così lì, in certi punti, molte volte, se non faccio la rosata. Io la abbasso e tu da lontano vedo un prato verde, così faccio io, grazie. Ma invece io lascio nel punto dove ho fatto il muro adesso lì. Io la voglio abbassare, la voglio togliere, la voglio tagliare, poi faccio un fatto per girare un po' il terreno, capito? Voglio girare un po' e poi se è caso mi si lascia così. Le passo la selva, c'ho la selva intanto. C'ho la selva a scoppio. Io lo passo, io la taglio sempre così e lui rimane sempre bella verde, capito? Io così ho il campetto di mio nipote, ho un campetto di 20 metri per 8. Le passo il respiratore negli angoli, pure attaccato al muro, poi le passo il rasaerba e passo. E lui a posto. E Giovanotto gioca. Sì, da me è sempre pulita la campagna, adesso sarà un 30 centimetri l'erba, ma ancora non la taglio. Adesso che fa qualche giornata bella scendo e mi faccio le bietole belle fresche tenere perché ne escono un bel da me e me le porto due belle borsone e allora affinché chi sa che vengono è poco e buona tennala a tennala sembrano le piantine sembra tipo il fondo delle lattue così mi. E poi vedo io dove noi parcheggiamo giù sotto Monteo, no? Lo so la gente si ferma anche la sera, parcheggia la macchina è sopra un monte in Chivi, dove noi mettiamo i mezzi, diciamo, le macchine nostre con lo spazio. E si va di Azzea, si va di Rito e tutta roba sana, capito? È roba sana e già va bene. Signor Bacchisio non è entrato, no? C'ero io da stamattina, dalle 10 e mezza, 11 e quarta, sbalzi così con Gio Maria. Franco si è sentito, però era a lavoro, esce alle 2 e niente. Esatto, Franco lavora giù a Florestano, se non sbaglio. Ehi, va bene, la giornata è un po' così, stava leggermente, qualche goccia è scesa, può creare, va, insieme. Grazie a lì! Giorno venticello, ma già va bene, io sono stato, intanto ho fatto poi pulizia, andrò a dopo le roba, poi domani se non piove faremo un'altra cosa, piano piano, avanti. Aspetta che guardo se sta piovendo perché mi sembra che ho due tappeti stesi, se non me li impondi. E vai, già sono qua, dai. Oh, riserva di lei, si tappeti. Ciao, Mari. Buonasera, Giulietto. Ben entrato e buongiorno. Avanti. Buongiorno. sempre, ma niente, Graziano. Quanto sono buone le verdure. Oh, yeah. La verdura è buona. Io la vedo mangiata di mare, non mi vedo, ho fatto la gola affettata di pietro e via, ma sta cosa, altro la carne è giù, ogni tanto ci vuole, fa bene. Anch'io l'ho mangiata ieri, l'affrettata di bietole. No, già mi piacciono a me, a voi. No, se no la facciamo spesso comunque. Ce l'ho mangiata ieri, avanti ieri, e poi ce ne è stata spesso, mangio meglio dagli ultimi, mangio mangiato. Già va bene, ogni tanto va bene, già fa bene. Ok, i lavori come vanno giù? Vanno avanti piano piano, sì? Sì. È quasi finito di intonacare l'ufficio. Poi all'interno si sa, all'interno poi c'è tutto da sistemare prima, ma a me mi interessa l'ufficio adesso, la parte esterna, capito? Vabbè, finisci quello che devi fare, quello urgente che serve alla signorina, che va bene, dai, piano piano. Piano, venire presto, non è così. Tanto io ci vuole per i tempi, no? Nessuno mi capisce in Italia, non c'è problema. Un po' domani. Io stavo chiamando Antonello, è in pensione, sì, oggi. Sì, da diversi anni, da parecchi anni. Però non sta più lavorando lì dalle suore non c'è più. Ci manca 4 mesi, 5 mesi, una cosa del genere. Caspita, gli volevano abbassare il nostro impegno, allora ho detto, beh, ciao e vai, arrivederci, grazie, e mai veveglia, gli ha detto. Allora, sicuramente avrà cambiato la madre superiore, guarda, perché ogni volta che cambio la madre superiore, loro sono di essere potenti, voglio fare il potere, voglio mangiare a quattro ganasce, voglio tagliare i viveri a chi stavano dentro, non posso immaginare. C'è un'amica mia figlia che lavora su alla cosa, dalle suore, conosce mia Valdetta, diciamo. Oia, la sua fede ci fu dal capo, figurati. Sì, perché era deceduta la madre superiore che c'era prima e poi l'hanno sostituita e questa qui è un po' degna meglio, capito? E dunque le vuole battagliare lo impegno, ma tu sei manca, ha detto, ma Fernando, vai, ciao, me ne vado, non ho bisogno di stare qua io. E se n'è andato. Ha fatto benissimo. Maccano. Stiamo già venendo poco il roba di va. Lei voleva tagliare, voleva risognare, no? La buona signora si può in buccia fredda, poverina. Mi sono detto, ma che c'è la mica mia figlia, signor Valdetta, vuole capo di coso. La coppia ci vuole il gabbo qua. E non penso che va, hanno cambiato la superiore, come si chiama, è venuta questa qua, che è una strega. Già lo so, sono insopportabili quelle sue, già lo so, sì. Ma non sono quelle, no? Qualcuna se ne salva, ma la maggior parte di questa gente sono insopportabili, per carità. Tutto gli è dovuto. È tutta gente che ha sfruttato l'umanità in tutta la vita, perché non hanno fatto mai niente. Hanno vissuto sempre a scrocco. Dovevo dire una cosa, ma non la posso dire qua, ma che sono di conversicare, per carità. Tu nota chi si fa sola e ce l'hai peccato da perdonare, hai capito? E una peggio dell'altra, ne conoscevo una giù a Monica Puccini e io facevo la zona, ohia! Già ne faceva una o due, se ne faceva. A parte quelle cose. Ciao! Quelle peggio per loro, quello che dico. Però io so solo che 50 anni fa, quasi, 18 porte bruciate, le suore, tanto per dire una, no? Qui c'è di Santa Maria di Pisa, 50 anni fa, 18 porte consegnate, finite e non le hanno pagato. Sì, così impari, vuol dire alle sgangalate degli anni. Avanti, chi è che vuole entrare? Giulia, buongiorno. Avanti, signor Gassarino, avanti. Hai ritirato la roba seta, sì? No, ancora non sta piovendo qua. No, c'ho un tappeto che è grosso, l'ha lavato ieri, è ancora umido, però se non piove lo lascio ancora, ogni tanto c'è venticello. Pasi perché mi prendeva nell'entro e un po' con lo stendino rubiano e rotto, se no andava a asciuttare, non asciuttava più. E qua, ripeto, un paio di voci poi fermato, c'è un leggero venticello, mia moglie ha atteso, ma tu poi almeno asciutta tutto. E vedi poi sta bene, là, avanti Giulia. Ciao, grazie. Poi una cattiva della sala stufa, grazie, e la picchia la cattiva, uno d'affetto, che asciutta subito. D'inverno è più difficile far asciugare la roba, grazie, è normale, no? anche per un po' perché c'è freddo, un po' perché ogni tanto piove, per cui senta un po' di più ad asciugare. Già lo metto lo stendino la sera all'entrata della porta del salone, che è largo lì, mette la roba, mia moglie, nello stendino, a quando il tutto la stufa verso l'11 la notte è secca la roba, e tanto non c'è traffico, non vi basta nessuno, lo metto lì e asciutta pure la roba. O se no, se c'è gente, lo metto nel pianerottolo, con un freddo di venire, la interdetta, la secca. Ma è così, l'inverno è per la roba è maledetta, non asciutta mai. L'estate me la togli dalla matrice che è quasi asciutta, quando la metti dopo un'ora la puoi togliere dal filo perché è già asciutta, ma l'inverno mi muore, ora è maraviglia asciutta, ma comunque è così. Vabbè, ho sentito un peschietto in 27, ma comunque non l'ho portato. Un cazzo non c'era nessuno. Avanti, Mari. Anche mia moglie, quando la roba plena, noi la mettiamo giù, si mette al ratto. C'è la verandina sotto, no? La stendina lì, ci sono quattro stendini, perché ci sono quelli nostri e quelli di mia figlia, è già asciutta in chivi. Poi se c'è roba urgente la mettiamo vicino alla stufa a pelle, che già asciutta proprio. Se asciuga proprio, staranta, mancanza d'altro. Va bene, restiamo, avanti. Va bene, adesso vi saluto, va, che qua la devo preparare. Oggi gnocchetti al ragù, gnocchi di patate, oggi fusilli di pollo con patate in forno, poi c'ho polpo con la salsa, piccantello e polpo, aglio e prezzemolo, peperoncino con le patate. Poi c'è la frutta, aranci, pere, mandarini, banane, insomma, finocchi come contorno e lattuga. Va bene per oggi, io vi saluto che mi preparo lo stomaco, me lo dilate e incomincia a pienare, antipasto, salsiccia e vari formaggi, dolci e piccantilli e tutto ok, riprendi Giulio. Aspetta, come dolce non la sai, Graziano? Hai dimenticato i fratelli, Graziano, non hai fatto le fratelli? No, martedì, le ho fatte l'altro giorno, mi aveva tre di noghi e le aggiudate, un vasoio mano, non è che ne mangio molto, ne ho mangiato due pezzi da 20 centimetri, da prima ho misurato la glicemia, mi aveva 280, troppo dolci sono. Sei tutto moglie e tuoi figlioli, e dunque, se tu prepari tutta questa cosa, non so quello. No, se oggi siamo in tre, vabbè, quello che rimane me lo mangio a cena. Si dà bene, rimani, dalla cena lo do a Rubiragna, a Mendibusi, che ci mangia a me. Tu sei troppo del cazzo, Graziano, troppa roba cucinate, troppa roba, Graziano, la ringrazio proprio, invece io, mia moglie ha cucinato, spezza pieno di gambe, pierini, anguilla e zeppi di mocca, e siamo in sei, già ci basta, come dolce abbiamo la colomba, già va bene, avanti Giulio. Sì. Ciao Mari, non faccio di mangiare, Mari. A che Giulio? Ciao Giulio. Di tu mamma faccio una mia nuova notte. Mari, a che ho mangio di più? Ma tu invece la notte, io ci manco, quindi. Ci siete sottopopolati. Hai schiacciato con veloce, Grazia. Ci sta parlando Giulio. Avanti giù. Non ho capito mezzo nulla. Ho detto che si è preparato, ha elencato 7-8 cose che ha preparato, tutte queste cose si mangiano i tre, che diamini, manco un ristorante così che si ha. Ciao Giulio, io mangio, Giulio, io mangio bene, metto via la notte quasi nuda, mi mangio una frutta, o un gioco un po' compreso. Ciao Giulio! Meglio più che di meno! bene. Ciao Rosy. Sì, d'accordo, ma tutti quanti mangiamo, ma Edo è elencato alimenti per un ristorante, non per tre passoni, ma per tre, fa un ristorante in tre, di 200 passoni. Ehi, a chi tempo è nuda e poco delicato, mangiene di e cucinelli, cioè mari, la capisci? Giulio! Giulio! Mamma mia, questo Graziano, sempre mangiando, tazia. Non è possibile, no. Paolo è fuori la piombo, anche se tuo marito. Che pittina, non lo so qui. Si deve far finire la cucina in bocca a tutte cante frequenza. E allora, che fa fatto? Va, con un ballo che ha più posto, così di pollo con un bel fatto. Si è fatto un colpo, con un sugo, si è fatto un bagarone, e anche tu mangi di tutto. E chi ci vuole un battacco? Ma è vero! Ma che è vecchio? Ehi, a Bonareggio, Ma tu l'hai fatta apposta per mangiare tutto questo colpo. E poi tu lo prova loro, ma lo fanno mangiare a tua moglie, tu sei occhio, sì. Ma a me non mi sa che fai tu. Ah, te l'hai compresa già, Mari. Grazie, pure a passare il forno devi mangiare. Ah! Devi mangiare anche a passare il forno. No, gli occhi di patate oggi faccio con sugo e ragù a pezzettoni per primo, poi per secondo c'ho tutto quello che ho elencato. Tanto sei vizioso, grazie, sei vizioso. Mi si deve venire a rammi, ok, dai. Vai, grazie. Ciao, grazie, buon pranzo, saluta Rosy, dai. Ciao Rosy, buon pranzo a voi. Ci sentiamo stasera, avanti Giulio. Giulio, ok, dai. Lo saluto anch'io, grazie. Lo lasciamo andare via perché così prepara il pranzo. Lui dice che prepara, lui, ma a me pare che è la moglie che prepara, mio marito. E tu dici sempre che prepara Edo, ma mi sa che non è vero. Sono bravarone poi Edo, mi fanno far mangiare la moglie, te lo immaginerei. Ciao marito! Allora Giulio! Dai faccia in terra, se hai discusso da voletto, vai vai! Oioia, cosa stavo dicendo così? Non parlano di buoni, vanno fatti mangiare a te, a te, non lo faccio apposta, non passa, se così a me mi chiede una buona dieta, la buona, mi mangio tutto io. Così è, Paolo. Allora, dai che ti interrai, domani fa, preparati il tuo boi. Giulio, a te il brecco. Se ha fatto un bello lì, questo è un acco, rimorro e degli altri faccio più belli. Ma non l'ha mai intesa la canzone della Melisana? Oh, grazie. Attento, che la Melisana fa effetto. Eravamo tante cose da bevarone. Eia, depura l'intestino, quello lì, ti depura tutto. Va bene, dai, io vado a depurarmi. Buon pranzo, a stasera. Ciao. A voi, ciao. Avanti giù. Buon appetito. Ci sentiamo stasera. Così è Marì. È di buona forchetta, Graziano mio, Marie, è un lavando, tu è sempre abbondante, capita all'anima, lo dico io, che si mangia che siete cari. Adesso assaggia poi tutto, non molto, però assaggia. No, è furbo. Aggiunge il paparazzo per non toccare nulla a nessuno, l'ho preso. È volpino, non vedo da danno. Tu c'ho la dieta accesa, ma non vedo nessuno. Boh, poi direi che tutto il canale, non vedo nessuno. Mica vi sta chiamando Bacchizio, non lo sentite? Vabbè, ciao anche a te Bacchizio, a stasera. Sì, guarda, a vedere per i giuri. No, tutti i tempi sono andati, a badare un carnevale. Aspetta, figlio, ce la cazziamo che c'è solo poco fare. Cosa ha detto Grazia? Scusa, Ha detto che è arrivato, ma che c'è Bacchizio che vi stava chiamando. Ah, ti è arrivato Bacchizio. Bene, funziona. Gesù, capito? fate, adesso leggo qui di chi fate, 4 fate, sa. Però... io non lo sento, ma chi c'è a pesare? È il cinese. E Luca mi sembra che era uguale a quello, a Luca lo devi chiedere, a Luca Gucco. Luca già lo conosce, anche Gian Maria mi sembra che ce l'abbia così. Elettronico, elettronico. Gian Maria e Luca già lo conoscono, io non lo conosco neanche io. Forse anche Giulio lo sa, Giulio tu lo conosci il Rosmetro per il BMR, come funziona, però è quell'elettronico. Spiegaglielo tu. BMR? Ma cos'è? Per il Rosmetro per UHF? Sì, è ella, l'ha preso, se l'ha comprato, e gli è arrivato. Dovrebbe funzionare come tutti i rosmetri, non fai altro che azzerare, portare la freccia alla fine della scala, poi commuti il power e sai quanto è la potenza, se poi commuta SVR ti dà le stazionarie. Non è così Giulio, elettronico, capito? Segna un casino di numeri. Rosmetro nuovo, hai sentito, ma chi sono? Rosmetro nuovo UHR, UHF. No, ma chi se mi stai ascoltando? Con la manopola grande, porti la freccetta, la porti a fondo scala, la porti e la metti sulla linea finale del fondo scala. Dopodiché hai commutato il commutatore SVR, e ti dà le stazionarie. Se metti power e ti dà le fatte di uscita. Non è così, e questo è elettronico, capito? È tutto elettronico, Giulio. Giulio, quello che c'ha lui, che ha preso lui, è tutto elettronico, freccette non ne ha, capito? È digitale, Emi. Ah, digitale? Non lo so. Allora non lo so come... E poi non ci sarà un libretto di istruzione, lo gliel'hanno dato. Capita, chiediglielo, io non lo sento a Bacchisio. Sento tutto in cinese e non si comprende nulla. Dovrebbe consultare quel modello lì nel computer e in italiano a vedere la spiegazione c'è. Bacchisio, devi consultare nel computer su internet, diciti... quel rosmetro in italiano, e in italiano te c'è scritto al computer e leggi come il funzionamento, o te lo scrivi o te lo stampi. No, io non lo sento, bu. Non sento neanche io adesso. L'antenna, ne ho tolto il rosmetro, capito? Ne ho tolto perché mi porta via un mucchio di segnale. Ah, ne l'hai levato perché ti porta via il segnale. E a Luca già lo conosce. Appena lo senti, se lo senti io glielo dico. O se lo senti tu, glielo dici tu, viene già te lo spiega lui come funziona. Ehi, ehi, boh, mi segna 1,13 qua. Poi il VAT ne segna 3. La sigla di dirti di questo rosmetro com'è? La sigla è la sigla di quel rosmetro che Giulio la vuole sapere, che guarda nel computer lui. Non c'è scritto è Suregon c'è scritto, ma è in Cina. U e V. Giulio, c'è scritto la marca Suvedon UEV Made in Cina. E basta, e allora, e beh, non c'è una cosa, non c'è un numero, non conosce niente. Il modello c'è giù, SW 102. Giulio, SW 102 c'è scritto. Marca Suvedon SV 102. Eia, Made in Cina. Ma penso che anche qua lo vendono, il continente qua. Penso proprio di sì, non lo so. Penso di sì. Boh, non lo so. Vabbè, dopo guardo a vedere se lo trovo. E ieri io stavo guardando così al telefonino e stavo guardandone un paio e le caratteristiche già ci sono scritte in italiano di quelli che stavo guardando. E devi guardare al computer e sai com'è il funzionamento, te lo spiega, va? Beh certo, basta metterlo su YouTube, devi di aprire su YouTube, di scrivere YouTube, Rosmetro o Vattimetro e la sigla, e sicuramente c'è la spiegazione. E Marchisio, tu con il computer non ce l'hai, prova a metterlo su YouTube, scrivi il Rosmetro, il nome, Rosmetro, Vattimetro, il nome, la sigla. E l'italiano già appare e ti esce tutta la scritta in italiano e la spiegazione pure. Io ieri sera stavo guardando così al telefono, radio a banda 2 o 3, però veloci, là, ed era scritta in italiano. Vabbè, là, ce la sentiamo stasera, buon pranzo Marino, ciao Marchisio, ciao Giulio, a stasera se coincide. Buon pranzo a tutti, anche agli ascoltoni. Ciao! Ciao, grazie, ciao! Ok, Roger, va bene. Ciao, grazie, buon pranzo, saluto in casa. Là. Ma che negativo, non ti ascolto, solo se arriva, solo lei da accesa, si vede lei da accesa, ma su negativo, negativo. Avanti giù. Nemmeno io l'ascolto, boh, non lo so, ma come, ma comunque, dopo vedere anche al computer, basta scrivere come funziona Rosmetro Vattimetro digitale e scrive la sigla e basta, e poi c'è una spiegazione, non già la trovo. Strano, perché se è scritto in cinese è chiaro che non lo può capire, come ti fai? Manco se non brucia. È vero Marino. Sì, anche io sono vicino al bar 138, quello cinese, oppure da Sakura o da Occo, questi sono più cinesi. Se mi chiedi lei io scrivo loro direttamente, no? Ma chi si ho? Chi è avanti? Mi ascolti giù? Non ti sento, chi è? Appunto, sono, ascolti. Adesso sì, adesso ti ascolto, ma chi? Vedi un po' un bacchino, sai che se cinese poi cosa ne sappiamo, come fischia. Prova al computer, qualche spiegazione ci sarà, troverai. Ah, boh, bisogna vedere un po'. Ma chiedo a Gian Maria che ce l'ha uguale. Chiedo io a Giulio che mi stanno chiamando. Mi stanno chiamando, ok, ciao Giulio, buon pranzo, sono in casa. Ciao Bacchi, se mi stai ascoltando, sono in casa e ci sentiamo stasera. Ok, ciao, avanti giù. Ok, ciao Mari, ciao, ci sentiamo, buon pranzo, ciao. Grazie per la chiacchieratina. Vai Bacchi. Sì, tutti, con carica, ci sentiamo stasera sul profondire. Ciao, ciao. Capito Bacchi, non lo so, come questo nuovo smartphone digitale. Se non lo vedo nemmeno, non posso nemmeno arrivare a capire come funziona, boh. Non lo so. Ci sarà la specificata, la banda, metti sulla banda UHF, sicuramente c'è un interruttore, che se funziona in VU ci sarà il tasto VU, o ci sarà, dunque tu o sintonizzalo su UHF, no? E poi prova, fai il tentativo, ma già te ne accorgi toccando i vari potenziometri, già lo trovi il modo come fanno funzionare. Ah boh, no. C'ha 3 tasti, ti ripeto, uno rosso, uno blu e uno giallo. E il coso, il rosso accende il coso, perché con la batteria, se c'è la batteria a parte, è fuori. E poi accende, e poi escono un calcino di numeretti, non si capisce cosa ne fai, incalchi i tasti e non si vengono niente. Ah, capita, allora come si fa? No, non è possibile, boh. Non lo so, allora, com'è la tua? Se ci sono 3 tasti, uno accende e dunque quello già sappiamo che accende. L'altro sarà uno per il V e uno per gli U. E dunque sarà così, sono per le due frequenze, no? Differenti. Vedo un po', non lo so, ma chi com'è? Con mio cugino, che lui l'ha comprato lui, se lui ce li ha. E questo dice, no, dice, l'ho provato uno e ci funziona benissimo. Cavolo, dimmi come funziona, perché le istruzioni è scritto in cinese, io in cinese non l'ho imparato ancora. Beh, certo, lo potete dire, io non lo so pescare il cinese, dunque. Voi siete stata la manco da Sareso, ditelo così. nulla giù. Male. Io pensavo che risolto il problema, invece il problema non l'avevamo risolto. Lo risolveremo stasera, là. Beh, senz'altro. No, ma posso provare i tentativi, poi già te ne rendi conto, dai. Fai diverse prove, già te ne rendi conto e trovi il modo come fare. Senz'altro, ma chi senz'altro ci riesci. Non sarà così complicato, è a Gallani, ma se no andiamo all'università e andiamo per impararlo a trattarlo. Facciamo un altro tentativo. Avere un modo di scegliere, solo che sto pensando, con quell'antennino Marino mi ascoltavano tutti a bomba, ma oggi nessuno, non si sa poco. Ma poi ciao Bacchino, ti sento più, ciao, ci sentiamo. Bene Giulio, ci sentiamo, ciao, buon pranzo, alla prossima.